Storie italiane. Diamanti e rospi. C'era una volta un pescatore e sua moglie. Avevano una bambina di nome Lina. Il pescatore ogni giorno andava alla riva del fiume e tornava con pochissimo cibo per la sua famiglia. Un bel giorno, mentre stava preparando le sue reti da pesca, lanciò un'occhiata al lato dove vide un bambino che galleggiava lungo il fiume su una foglia gigante. Mamma mia, che cosa sta facendo quel bambino che galleggia in questo fiume? Farò meglio a portarla fuori, altrimenti annegherà. Il pescatore tirò fuori la bambina dolcemente e la portò a casa da sua moglie. Mia cara, questa bambina galleggiava su una foglia dell'acqua. Dovevo salvarla e portarla a casa. Abbiamo già una figlia. Come pensi che saremo in grado di allevarla? La bambina si chiamava Fiona. Il contadino l'amava tanto quanto sua figlia. Col passare degli anni, Lina e Fiona crebbero e divennero due bellissime ragazze. Mentre Lina cresceva per essere come sua madre, Fiona era gentile e premurosa, proprio come suo padre. Il pescatore era molto malato e presto morì. A Fiona si spezzò il cuore. Ci hai portato sfortuna. Tu sei la sfortuna. Ben presto la rabbia della madre per Fiona crebbe sempre di più. Iniziò a trattare Fiona come una domestica e ad escluderla dalla famiglia. La faceva mangiare in cucina, da sola, e lavorare continuamente. A parte le faccende quotidiane, Fiona doveva andare due volte al giorno a prendere l'acqua, a più di 1,5 miglia di distanza dalla casa, e portare a casa una brocca piena. Un giorno andò alla fontana e si sedette lì piangendo amaramente. Proprio allora una povera donna le si avvicinò e disse: «Oh, bella fanciulla! Per favore, posso avere un po' della tua acqua? Molta sete!» «Perché? Certo che puoi!» Fiona si asciugò le lacrime, versò dell'acqua per la povera donna, sollevando la brocca per tutto il tempo, così da farla bere facilmente. La donna bevve l'acqua e disse: «Sei così gentile e cortese che non posso non darti un regalo! Ogni volta che qualcosa toccherà il tuo cuore, verranno fuori le lacrime, si trasformeranno in diamanti e perle!» La povera donna era in realtà una fata e non appena ebbe unito le sue mani, si trasformò in una fata. Fiona era senza parole. Mentre Fiona si metteva in piedi incredula, la fata sorrise e svanì. Fiona arrivò a casa e trovò sua madre piena di rabbia. «Come osi perdere così tanto tempo per tornare dalla fontana? Non sai che io e tua sorella abbiamo sete? Subito, in cucina!» «Scusa, madre!» Non appena Fiona entrò in cucina, gettò giù il boccale e cominciò a piangere amaramente. E proprio come la fata aveva promesso, le sue lacrime si trasformarono in scintillanti diamanti e perle lucenti che rotolavano lungo le sue guance. La madre entrò in cucina e vide Fiona che piangeva diamanti e perle. «Cosa vedo lì? Perle e diamanti rotolano giù dalle tue guance? Cosa sta succedendo?» Fiona spiegò che cosa era successo mentre era alla fontana e sua madre rimase piuttosto stupita. «Lina, andrai immediatamente alla fontana. Non ti piacerebbe, mia cara, avere lo stesso dono? Devi solo andare a prendere acqua dalla fontana e quando una povera donna ti chiederà di lasciarla bere, dagliela molto educatamente. E presto anche tu avrai tutti i diamanti e le perle che vorrai.» «Come dici tu, madre?» «Bene, allora vai.» Lina andò alla fontana e prese la brocca d'argento più bella della casa. Mentre prendeva l'acqua dalla fontana, vide una signora magnificamente vestita che usciva dalla foresta, che le si avvicinò e chiese un bicchiere d'acqua. «Oh, bella fanciulla, per favore posso avere un po' d'acqua dalla tua brocca? Sarei venuta qui per servire l'acqua a te? Immagino che questa brocca d'argento sia stata portata qui per te, vostra signoria, vero?» «Sei così poco gentile. Bene, dato che sei così ostile e meschina, ti maledico, così che ogni volta che vorrai parlare gracchierai come una rana.» Lina, che allungò una mano per fermarla, gracchiò. Rendendosi conto che era troppo tardi, Lina iniziò a piangere e mentre piangeva, un suono gracchiante uscì dalla sua bocca. Figlia mia, cos'è quel suono che stai facendo? Lina cercò di parlare, ma si limitò a gracchiare. È stata maledetta! Mia figlia è stata maledetta! Oh, misericordia! Sei tu che hai causato tutto questo e pagherai per questo quando verrà il momento. Esci, prendi della legna. La mia Lina sta morendo di fame. Fiona rimase profondamente ferita e corse fuori casa lasciando perle e diamanti che cadevano lungo la strada. La mattina dopo, quando Fiona era fuori dal granaio da sola, iniziò a cantare. Oggi sarà una bella giornata vorrei. Prendi il mio male e il mio dolore e soddisfa i desideri miei. Proprio in quel momento un principe passò e la vide da lontano. A malapena riuscì a guardarla bene. Il principe sorrise. Era rimasto ipnotizzato dalla sua bella voce. Fiona rientrò in casa senza sapere che il principe l'aveva vista. Il principe non poteva rimanere senza vedere la sua faccia. Ordinò alle sue guardie di aspettare e andò a casa di Fiona per vederla. Ciao, principe! Cosa ti porta qui? Ho visto una ragazza uscire dal granaio con una voce così bella e angelica che mi sono innamorato di lei. Chi è lei? Bene, lei è mia figlia. Vado subito a prenderla. Lina, indossa subito i vestiti di tua sorella e vai fuori perché c'è un principe. Oh, con la tua meravigliosa voce hai acceso il mio cuore e vorrei che tu diventassi mia moglie. Mi farebbe molto piacere se potessi cantare per me ancora una volta, in modo da poter racchiudere il suono della tua splendida voce in questa conchiglia, affinché mia madre ascolti, così che lei possa approvare questo matrimonio. Lina, con tutta la sua eccitazione, cercò di cantare e finì per gracchiare. Che tipo di presa in giro questa? Mi stai insultando? Guardie, prendete questa donna e portatela via immediatamente. Principe, per favore, perdona mia sorella, è stata maledetta e ogni volta che desidera parlare, gracchia come una rana. Ero io che cantavo nel fienile. Il principe rimase ipnotizzato nel vedere Fiona, ma voleva assicurarsi che non si stesse prendendo gioco di lui. Per favore, canta per me. Oh, principe, perdona mia sorella, lei è maledetta. Ero io che cantavo la canzone. Lei è già turbata, non peggiorare la situazione, ti prego, potente principe. Il principe rimase piuttosto colpito dalla sua voce. La tua voce è bella come te e dimostra che devi avere anche un buon cuore. Mi piacerebbe che tu diventassi la mia principessa. Perdonami, principe. Devo rifiutare perché è il sogno di mia sorella sposare un principe. Che cosa? Non posso sposare un rospo bugiardo. Fiona si inginocchiò guardando il cielo. Oh, fata magica, per favore vieni ad aiutarmi e dai la mia benedizione a mia sorella. Sono pronta a prendere su di me la sua maledizione affinché possa realizzare il suo sogno e sposare un principe. Vedendo sua sorella pregare per lei, Lina corse ad abbracciare la sua sorellina mentre piangeva e singhiozzava. Proprio allora la fata apparve di fronte a lei. Vedo che hai imparato la lezione. Toglierò la tua maledizione e ora, quando vorrai parlare, una voce bellissima verrà da te. La fata agitò la sua bacchetta e Lina fu avvolta dalla magia, proprio come sua sorella. Grazie mille! Sono così grata per questo regalo! La fata sorrise, agitò la sua bacchetta magica e svanì. Mi piacerebbe sposarti, Fiona, perché mi sono innamorato del tuo cuore gentile e indulgente. E quanto a tua sorella, mio fratello più piccolo sarebbe proprio felice di sposarla. E lui la renderà molto felice. Fiona fu felicissima della proposta del principe e decise di risposarsi subito. Fu celebrato un grande matrimonio ed entrambe le sorelle si sposarono. Vennero invitate persone provenienti da tutto il regno. Tuttavia, la loro madre non fu invitata. Passò un anno e il regno si rallegrò per la nascita di una bellissima principessina. Fiona teneva la piccola principessa tra le sue braccia. Mentre la piccola principessa piangeva, per la prima volta, una piccola lacrima rotolò lungo la sua guancia e si trasformò in un diamante scintillante. La gentilezza ha vinto ancora una volta.